anche la sponda, la serve inseospettata in modo il mio veleno, e mi crudele di vedere che l'incantò, e mi crudele di vedere. E mi crudele di vedere